Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno se ci state ascoltando di prima mattina, altrimenti buon fine serata se ci ascoltate in replica alle 20.45. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog sull'home page del Sole 24 Ore. Il mio blog si chiama Guardie o Ladri, oppure se digitate su un motore di ricerca blog di Roberto Galullo lo trovate. Mi farà piacere dialogare con voi anche in questa forma. Allora, il caso che trattiamo oggi è un caso che nasce dall'esperienza mia personale di genitore. Non me ne vogliate, ma capirete subito che interessa centinaia di migliaia di famiglie. Fino a qualche giorno fa dicevo ai miei figli: per piacere abbassate il volume della TV. Questo accadeva in coincidenza della messa in onda della pubblicità. Devo dire, sono un po' tardo, evidentemente l'età fa brutti scherzi anche su di me, e mi sono accorto che non era colpa dei miei figli che non abbassavano il volume, ma al contrario era colpa dei network televisivi che sparavano a palla la pubblicità nel momento in cui interrompevano la programmazione. Allora, devo dire che siccome sono curioso, altrimenti non farei questo mestiere, ho girato un po' tra i siti e ho trovato moltissime proteste su questo punto, come ad esempio quelle che compaiono nel sito dell'ADUC, che come voi sapete è l'Associazione per i diritti degli utenti e dei consumatori. E allora ho voluto capirne di più. E per farlo insieme a voi ho chiamato a discuterne Vincenzo Don Vito, che è appunto il presidente dell'ADUC. Buongiorno Don Vito. Buongiorno. E ho chiamato anche la direttrice generale di un grosso network televisivo, quale Odeon TV, di cui tutti siamo spettatori, che fa anche una splendida programmazione, la dottoressa Anna Di Sabato. Buongiorno Di Sabato. Buongiorno a tutti. Allora Don Vito, partiamo da lei. Effettivamente non sono ancora così rimba da non accorgermi quando il volume è alto e quando invece sono le TV a barare, o sbaglio? Non sbaglia, tra l'altro se ne accorgono anche i bambini, infatti la mia piccina spesso mi dice: babbo, perché è così alto il volume quando c'è la pubblicità? E allora come mai si comportano in questa maniera? Ma si comportano per il semplice fatto che c'è una sorta di impunità. Ricapitoliamo per chi ci sta ascoltando brevemente come sta l'aspetto normativo. La legge del 1990 stabilisce che ci deve essere un volume identico tra pubblicità e trasmissione, legge disattesa. Nel 2001 è intervenuta un'ordinanza della GCOM, l'autorità garante delle comunicazioni, che ha detto che invece va rispettato questa legge, ma niente, fino al 2006 nuova ordinanza della GCOM che stabilisce invece una tolleranza del 15%, cioè le pubblicità possono essere il 15% di un volume maggiore rispetto alla trasmissione che uno sta seguendo in quel momento, e ha stabilito anche delle sanzioni che vanno da 5.000 a 51.000 euro. Poi dopodiché abbiamo avuto nel dicembre 2007 la RAI, che col ministro dell'epoca Gentiloni aveva preso un impegno a ottemperare le ordinanze dell'autorità, e null'altro è successo. Ecco, mi scusi Don Vito, ma quante sono state a sua conoscenza le sanzioni finora irrogate alle TV che non rispettano questo limite, che tra l'altro mi pare cervellotico quanto cervellotico è il legislatore italiano? Questo limite del 15% di tolleranza mi pare più difficile da applicare di non so che cosa. Ma che io sappia, almeno quando riesco a informarmi attraverso il sito internet dell'autorità della GCOM, neanche una. Ah, fantastico, benissimo. Allora, ovviamente ci arriverebbero anche i bambini che frequentano le scuole materne ai primi anni, diciamo così, dei nidi. È chiaro che c'è un motivo per il quale viene alzato il volume delle pubblicità, e per richiamare l'attenzione da parte dei network televisivi. Allora, questo è, come dire, comprensibile, ma a questo punto cerchiamo di capire come si comporta una TV quale appunto è Odeon TV. Ecco, dottoressa Di Sabato, cosa fa Odeon TV per rispettare queste leggi, per rispettare i limiti che non vogliono che le TV, i network commerciali, aumentino il volume della stessa? C'è un controllo tecnico che viene fatto, quindi è una cosa semplicissima. Vale a dire, c'è un apparato che si chiama limitatore compressore che viene posizionato all'uscita della regia prima che il segnale arrivi nei punti di diffusione. e pertanto una volta tarato questo, la funzione di questo apparato è proprio quella di livellare tutti i segnali audio. Quindi lei, quindi se la sente di affermare che Odeon TV trasmette su tutto il territorio nazionale senza alcuna differenza di volume tra la normale programmazione e la programmazione pubblicitaria. Allora, io le dico di sì parzialmente e le spiego il perché. Prego. Odeon TV, a differenza degli altri network, è un circuito. Di conseguenza, come circuito, trasmette la sua programmazione terrestre su emittenti affiliate o e emittenti di proprietà. Quindi per quelle che sono le emittenti, che è il gruppo Profit, che è poi la società proprietaria, controlla direttamente? Assolutamente sì. Può esserci qualche emittente affiliata, ma io penso di no, perché ci sarebbe sicuramente arrivata la segnalazione che magari non usa questo sistema o non ha tarato correttamente questo apparato. Ho capito. Ma, le dico, segnalazioni non ne abbiamo e pertanto per noi è molto più facile essere in regola che non esserlo. Che non esserlo. Ho capito. Ecco, allora io vorrei tornare un secondo dal Don Vito, che è appunto il presidente dell'ADUC, per chiedergli se per caso è a conoscenza di segnalazioni che riguardano anche questo circuito televisivo oppure no. Purtroppo sì, nel senso che ci sono arrivate delle segnalazioni dalla Toscana dove appunto le emittenti collegate al circuito Odeon TV anche in maniera molto più elevata che non rispetto al comportamento degli altri emittenti, quando c'è il messaggio pubblicitario sparano terribilmente. Ecco, ha sentito dottoressa Di Sabato in Toscana? Ho sentito, ma le dico, non essendo a conoscenza di questa segnalazione, ne prendo atto adesso e farò fare immediatamente gli opportuni controlli. Bene, questo le fa onore. Avessi ricevuto segnalazione, li avrei già fatti fare. Bene, questo le fa onore, ovviamente, perché dobbiamo fare tutti in modo di rispettare le leggi, anche quando queste leggi a volte non piacciono. Vorrei tornare allora in questo botta e risposta da Don Vito, ma visto che io francamente non credo molto, soprattutto in questo momento di disillusione, possiamo chiamarla cosmica, no? Anziché richiamare un pessimismo comico, forse è ancora più corretto, chiamiamola disillusione. Ecco, non credo molto alle capacità del legislatore o di questi organismi di vigilanza di fare in modo che si rispettino questi limiti, pur imposti da una legge, come lei ci diceva, del 1990. Ma allora le chiedo, come può fare un utente a difendersi? Soltanto con quel magico tastino del telecomando, o dobbiamo sperare in un miracolo di qualcuno che finalmente abbia pietà anche delle orecchie dei radioascoltatori? Beh, a parte che ci sono dei sistemi tecnici su questo che ovviamente creano dei costi e sono una rogna in più per chi deve installarli sul proprio apparecchio, che fanno abbassare il volume quando lo stesso ha una mancanza di costanza nell'emissione. Ma a parte questo, è evidente che l'autoregolamentazione da parte dei vari circuiti televisivi e dei vari emittenti nazionali non vale, non ci si può fidare, perché se la legge ha 19 anni, stiamo parlando di una legge del 1990 che, siccome non prevedeva sanzioni, che sono arrivate soltanto nel 2006, e nonostante questo tutto continua come prima, evidentemente non hanno compreso che forse nel mercato questo tipo di irruenza del messaggio pubblicitario non è gradito all'utente medio della televisione. Sì, anzi, probabilmente forse crea un effetto contrario, perché nel momento in cui sento, almeno personalmente, aumentare il volume e lo associo a quel determinato marchio prodotto, è la volta buona che non lo acquisto, se non altro per il fastidio che mi provoca. Le chiedo questo, Don Vito, ma la RAI per esempio come si comporta? Mediaset, che è il, diciamo così, il concorrente, come si comporta? L'unico riferimento che ho trovato è un'indagine dell'Istituto Superiore della Comunicazione, l'ISCOC, del 2006, che dice che l'83% degli spot, in questo caso sono stati analizzati in Rai 1, Canali 5 e La 7, il volume è più alto di quello che sono i limiti consentiti dalla legge. Ah, mentre, quindi però, diciamo così, che è un'illegalità ad ampio spettro, che non guarda né a Rai né a Mediaset né alla 7, è trasversale, diciamo. Sì, sì, e la percezione tra l'altro degli spettatori che questo fenomeno sia molto diffuso invece è più bassa, perché probabilmente c'è un po' di assuefazione. La percezione è soltanto al 57%. Allora, per, diciamo così, beneficio dei radioascoltatori, aderite anche voi a questa ipotetica battaglia per la salvaguardia dei padiglioni auricolari, chiamiamolo così, e quindi vi invito magari a trasmettere le vostre segnalazioni o al sito dell'ADUC o anche a quello di Odeon TV, la cui direttrice generale, che ringrazio, la dottoressa Di Sabato, si è detta disponibile ovviamente a controllare sul territorio il volume della pubblicità, oppure spedite le vostre lamentele alla RAI e a Mediaset, perché è giusto che le leggi si rispettino, soprattutto è giusto che la pubblicità non catturi la nostra attenzione più di quanto non sia già regolamentato appunto per legge. Grazie a Don Vito, presidente dell'ADUC, in regia Filippo Aureggi, in studio Laura Faggin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.